Ecco, siamo contentissimi di averti qui nella trasmissione a parlarci del secondo mistero della gioia, che veramente abbiamo tutti in questo momento molto molto bisogno che la Madonna ci visiti in tutte queste circostanze dolorose che ci preoccupano anche per il futuro. Mi pare che sia davvero provvidenziale il tuo intervento di stasera. A te la parola, Don Andrea. Grazie, Don Dino. Allora, ecco, io riprendo la conversazione che avevo avuto all'inizio di maggio, e vi avevo parlato del primo mistero gaudioso a partire dal libro che ho scritto qualche tempo fa, Contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Per cui, anche per chi non era in ascolto l'altra volta, dico, io rileggo brevemente quello che ho scritto. Il mistero l'ho suddiviso in 7 quadri e poi aggiungo qualcosa, e così cerco di dare un aiuto, perché tutti coloro che quando recitano il rosario, quando meditano questo secondo mistero gaudioso, possono avere qualche ispirazione per meditare questo mistero. Allora, il primo quadro e io lo chiamerei l'ascolto da parte di Maria dell'ispirazione, la prontezza nel seguirla, il valore dell'andare in visita. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Leggo prima un piccolo brano del Vangelo e poi dico il mio commento. Gli occhi di Maria non vedono più l'angelo e ancora non possono scorgere il frutto del suo seno. Il suo corpo ancora non avverte la sua presenza, le sue mani non lo possono accarezzare, ma il cuore sente la spinta del Verbo di Dio concepito in lei e del suo spirito. Vai Maria, corri da Elisabetta. L'angelo ha parlato di Elisabetta, voleva forse dire, lei potrà capire questa storia immensa di Dio che in te si fa bambino. Così non sarai sola, potrai cantare, gridare la tua gioia. Porta Giuseppe con te. E Maria va, senza indugio, 4 giorni di viaggio. Docile ancella del Signore, si lascia orientare ad andare, a servire, ad amare. O Dio che hai preparato l'incontro pieno di Spirito Santo tra Elisabetta e Maria, grazie al suo viaggio intrapreso rapidamente, insegnaci ad andare solerti verso coloro che aspettano te. Nel scrivere questo libro ho seguito l'ispirazione di Giovanni Paolo II, che nella Rosarium Virginis Maiae diceva prendete un piccolo brano del Vangelo, meditatelo e poi radunate in una preghiera il senso della vostra meditazione. A me piace vedere in questa prima parte della visitazione di Maria Santissima il fatto che lei proprio ha ascoltato un'ispirazione con una grandissima sapienza e docilità, perché l'angelo non le ha detto esplicitamente vai da Elisabetta, ma lei lo ha capito e lei ha intuito che siccome Elisabetta, sua parente, era stata fatta oggetto anche lei di un'attenzione speciale da parte di Dio, intuisce che quell'attenzione speciale ha qualcosa a che vedere con quella realtà meravigliosa che è accaduta a lei, e allora va senza indugio, un viaggio lungo, faticoso, in salita. Il prodigio che è avvenuto dentro di lei, a volte noi pensiamo, noi potremmo anche pensare, ma forse aveva tutto il diritto e anche il dovere forse di stare in casa sua, di proteggere questa gravidanza così importante per la vita del mondo, e invece lei non si custodisce, non si rinchiude, è il figlio suo che la porta ad andare. Io ho pensato che proprio il figlio che lei ha appena ricevuto nel grembo è inviato da Dio Padre, è venuto da noi attraverso di lei, e quindi questa grandissima unità che c'è tra la madre e il figlio porta la madre ad andare anche lei e a portarcelo. E come prima azione, dopo aver concepito il Verbo nel suo seno, Maria corre da Elisabetta in perfetta unione con suo figlio. A me torna in mente così la visita che è venuta a farci il Papa a Milano. Io abito a Milano, quindi in questi giorni, e effettivamente ci ha portato la grazia che accompagna la sua persona, la persona del Vicario di Cristo, e noi abbiamo esultato di gioia. E mi torna alla mente anche in questi giorni, sento raccontare dalle famiglie che hanno accolto le famiglie, e da parte di tutte e due, sia chi ha accolto, sia chi è arrivato dalle parti più diverse del mondo, una gioia speciale. Io penso che sia qualcosa di simile. C'è una grazia di Dio in coloro che vanno a trovare qualcuno per amore di Cristo e in coloro che ricevono qualcun altro per amore di Cristo. E si è data la gioia dell'incontro, una gioia soprannaturale. Qualche volta anche noi riceviamo l'ispirazione di andare a trovare qualcuno, o di chiamarlo al telefono, di mandargli un messaggio, di una lettera. Forse la riceviamo quando diciamo il rosario, mentre recitiamo questa decina, il secondo mistero gaudioso, e allora facciamo il proposito di andare a trovare quella persona, e così è la Madonna che ci dice: guarda, come il mio figlio ti dice, e come il Padre ha mandato me, così io mando voi, ecco, vai da quella persona che ti sta aspettando, vai da quella persona che ha bisogno. In questi giorni quante volte il Papa ha ricordato le persone che hanno bisogno, le famiglie che sono nelle necessità economiche, i terremotati, quante volte ci ha incitato a dare il nostro aiuto. Secondo quadro, lo chiamerei il valore divino dell'umano. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Elisabetta, il suono dolce e chiaro della voce di Maria, rompe il silenzio della casa di Zaccaria. Ora che il Verbo di Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, piccolo embrione nutrito del sangue di una donna, le grandi grazie di Dio passano dai piccoli gesti quotidiani. Un saluto, un servizio, una visita, un grazie, un sorriso. La parola di Maria, la voce, la persona, gli occhi, l'essere di Maria, la sua bellezza trasmettono la potenza di Dio. Lo Spirito riempie così della sua esultanza il bimbo non ancora nato e con lui sua madre. Elisabetta grida a gran voce la sua parte dell'Ave Maria. L'eco di quell'esclamazione non verrà mai meno. La sua casa non è più muta. Come le nostre case, Maria ci saluta e noi rispondiamo al suo saluto. O Dio, Spirito Santo, che per mezzo della voce di Maria hai riempito di te Elisabetta e il suo bambino, per la mediazione materna di Maria, riempi il nostro cuore perché possiamo proclamare a gran voce le tue meraviglie. Mi è tornato in mente nel rileggere queste parole che ho scritto nel mio libro e rileggere il Vangelo che ci narra l'ingresso di Maria nella casa di Elisabetta, che molti artisti dipingono questo incontro come un abbraccio. E penso che Dio abbia voluto mettere in evidenza in questo episodio della sua vita, il primo, potremmo dire, il primo episodio pubblico di Gesù, anche se è nascosto, il valore del saluto, dell'abbraccio, del sorriso, dell'incontro nell'intimità della casa, del valore grande di un'amica che incontra un'amica. Ecco, tutte realtà profondamente umane che si riempiono di grazia e diventano la porta attraverso la quale passa lo Spirito Santo. Nella Chiesa, se ci pensiamo bene, è proprio tutto così e dobbiamo riscoprire il valore delle cose create da Dio, perché il Signore passa attraverso di esse. E proprio questa sera in alcune città italiane hanno fatto la processione del Corpus Domini, a Milano, a Roma, a Verona, a Firenze e sicuramente anche in qualche altro luogo, e altre le faremo domenica. E pensiamo che il Signore, proprio nei sacramenti, nell'Eucaristia, utilizza il pane per nascondersi e diventare, ecco, possiamo dire, noi sacerdoti diciamo: questo è il mio corpo, e da quel momento non è più pane, ma mantiene quell'apparenza di pane sotto la quale è nascosto il corpo di Cristo, quel corpo di Cristo che nella visitazione di Santa Elisabetta era lì, nel grembo di Maria, sotto il suo cuore. E sempre fa così Gesù, con i suoi sacramenti, un gesto, una parola umana, una realtà creata, l'acqua del battesimo, e per trovare una strada per donarci la sua grazia. Gesù si è fatto uomo uguale a noi in tutto tranne che il peccato, e tutta la storia della Chiesa possiamo dirla la storia del valore divino di tutto ciò che è umano tranne il peccato, e il peccato, quando lo presentiamo a Gesù, diventa anche quello un'occasione per scoprire la sua misericordia. Io penso che la Madonna, con questa visita, dobbiamo pensare che veramente la Madonna viene a visitarci ogni giorno e ci insegna che noi cristiani anche possiamo essere portatori di Cristo, no? Cristofori, nel camminare in mezzo al mondo, nelle nostre visite della realtà ordinaria, quando andiamo a trovare persone nel lavoro, nella loro casa, nelle loro necessità. Il terzo quadro lo chiamerei un incontro che porta la gioia. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Elisabetta non ha bisogno di parole d'angelo né di chiedere spiegazioni, le basta il saluto di Maria, il salto di gioia del suo atteso e la potenza dello Spirito Santo che le spiega ogni cosa. Maria, per lei, è subito la benedetta tra le donne, è la madre del suo Dio, e lei si sente indegna della visita. Alla prima uscita pubblica, il Figlio di Dio, concepito da pochi giorni, conferma la sua prerogativa di essere fonte di gioia. Basta la voce di saluto di sua madre. Rallegrati, Maria, diceva l'angelo Gabriele alla Madonna, e la Madonna ed Elisabetta si rallegra a gran voce appena sente il saluto di Maria, e la gioia di Elisabetta sarà la gioia di tutto il popolo, come poi gli angeli diranno ai pastori quando Gesù nascerà. O Dio onnipotente, che hai organizzato la festa dell'incontro di Maria con Elisabetta e del figlio tuo appena concepito con Giovanni non ancora nato, fa che anche noi, grazie al suo richiamo, assaporiamo la gioia dello Spirito Santo. Ecco, io penso che questo incontro con Gesù dobbiamo riflettere, perché porta la pienezza dello Spirito Santo e porta con sé una gioia immensa e indicibile. Io ho avuto la fortuna di poter stare con il Papa in questi giorni varie volte, appunto con tutta la gente, nella messa di domenica scorsa a Bresso, e come sempre succede quando noi incontriamo il Papa, sentiamo una gioia profonda, una gioia inesprimibile. Penso che sia qualcosa elevato ancora di più, perché lì c'era proprio Cristo corporalmente presente e la sua madre, quella che ha sentito Elisabetta, una cosa incontenibile, tanto che la porta a dire delle parole che noi ancora oggi e fino alla fine dei tempi noi ripeteremo nell'Ave Maria senza mai stancarci, né noi né in tutte le lingue del mondo non ci stanchiamo mai, e non ti stancheremo mai di dire a Maria: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Poi questa presenza così vitale di questo bimbo appena concepito mi ricorda che il Papa anche ai politici a Milano diceva: il diritto alla vita, di cui non può mai essere consentita la deliberata soppressione, ci ricorda come il Signore ci fa capire che fino nei primissimi giorni, ecco, questa vita umana è così efficace, no? La luce del Figlio di Dio già si irradia attorno a sé. E poi mi viene in mente anche che un'altra cosa che ci può servire quando diciamo questo mistero del rosario, no? Che Elisabetta comunica subito la gioia che ha ricevuto. È molto bello vedere questo nell'amicizia, nell'amore. È molto importante la comunicazione della propria interiorità, delle cose importanti, a volte sono dolori, a volte sono pensieri, a volte sono dubbi, ma anche le gioie. E noi dobbiamo imparare da Maria ad ascoltare la gioia degli altri, anche la gioia, e a lasciarci contagiare da questa gioia. Maria era piena di gioia, ma la sua gioia aumenta. A noi qualche volta succede che quando una persona cara ci comunica una sua gioia, magari in quel momento noi siamo un po' in un momento di bassa, abbiamo una visione negativa, siamo un po' sofferenti, e dobbiamo però in quel momento lasciarci contagiare da questa visione di fede, da questa visione dell'ottimismo della fede che ci porta alla gioia nonostante le difficoltà, i dolori e le ristrettezze della vita presente. E quindi Elisabetta grida la sua gratitudine, pensiamo che anche noi stiamo facendo questo quando andiamo a trovare la Madonna nei suoi santuari, quando la ringraziamo per una grazia ricevuta, quando diciamo il rosario, e in questi giorni ci potremo unire al grazie che il Papa continua a dare a Dio per questo evento così bello che è successo qualche giorno fa, anche ieri nell'udienza, ecco, ringraziava il Signore. Noi ci mettiamo nella stessa logica della festa e ringraziamo Dio di tutti i doni ricevuti. Il quarto quadro che io ho un po' descritto nel mio libro Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, potrei chiamare il valore della fede. E sono le parole che Elisabetta dice subito dopo, dice, ecco, riprendo da prima, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Elisabetta ha visto nel mutismo di Zaccaria il risultato dell'incredulità e sperimenta per contrasto nel saluto pieno di Spirito Santo di Maria l'efficacia comunicativa della fede. Per fede Maria ha creduto nell'impossibile che è possibile a Dio. Per fede si è donata a Dio con tutto il suo essere. Dio fa sperimentare a Maria l'immensa fecondità spirituale della sua maternità appena iniziata. Elisabetta è pazza di gioia e dà voce umana al desiderio dello Spirito Santo di fare un bel complimento eterno a Maria. Beata te che hai creduto, beati noi che saremo tuoi figli. Padre Santo, tu hai voluto che la redenzione del genere umano cominciasse dalla fede e dall'obbedienza di Maria, nuova Eva. Fa che anche noi, seguendo il suo esempio, crediamo fermamente in te e a te ci doniamo con tutta la nostra vita. Io penso che Maria può esserci madre nella fede, è lei che ci ha generato alla fede e la sua fede è lodata da Elisabetta, è stata la porta per la quale è arrivato a noi Gesù, la fede di Maria, e può essere lei la porta della fede nell'anno della fede che comincerà tra poco. Credere alle promesse di Dio anche quando sono difficili da credere, Maria ha fatto questo, per questo viene lodata da Elisabetta, anche quando esternamente sembrerebbe che non si stiano realizzando. Che cosa avrà pensato Maria in quel suo viaggio, in quei giorni, dopo l'annuncio dell'angelo, prima di vedere Elisabetta? Ha avuto fede, anche se forse non aveva nessun segno esterno che la promessa si stesse realizzando. Credo, Signore, diciamo al Signore Gesù, ma con l'aiuto di Maria aumenta la mia fede, aumenta la nostra fede. E il quinto quadro lo potremmo chiamare magnificare Dio, esultare in Dio, è il Magnificat. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria era già piena di gioia per l'immenso compito che l'angelo di Dio le aveva affidato e che procedeva nel normale silenzio di una gravidanza al suo inizio. Non si aspettava un altro annuncio dello Spirito Santo così forte da parte di Elisabetta, sua parente e amica. La sua anima non può fare altro che cantare e danzare e dire a Dio com'è grande, com'è bello, com'è buono. Anche noi dobbiamo imparare a dire come sei buono, Signore, come sei grande, come sei bello, magnificarti, no? Magnificare, esultare in Dio, il nostro Salvatore, Salvatore di Maria, Salvatore nostro. Ha esaltato e magnificato la piccolezza della sua creatura e tutta la storia degli uomini le dirà te beata e non lo farà con nessun'altra creatura. O Dio onnipotente che hai esaltato in Maria la sua umiltà, fa che guardando lei e Gesù che ha concepito, ci ricordiamo che ogni grandezza viene da te. E che cosa fa esultare Maria? È la conferma delle grandi cose avvenute in lei, la loro moltiplicazione e anche il fatto che queste grandi cose lei percepisce che sono avvenute come per contrasto, guardando la sua piccolezza. Non ci dobbiamo mai meravigliare della nostra povertà, della nostra piccolezza. Maria ci insegna questo. Dio può fare in noi grandi cose e chi si umilia sarà esaltato, ci ha insegnato il Signore. E E poi a me piace vedere in questa gioia di Maria che si manifesta così fortemente con il Magnificat, che anche questo noi lo diciamo tutti i giorni nella Chiesa, è una preghiera che non si è mai fermata, no? E mi piace vedere che anche Maria, nella sua umanità così bella, così pura, così piena di grazia, è stata aiutata da Elisabetta. Ha ricevuto attraverso lei un aumento di gioia, una conferma della sua vocazione divina, del fatto che il concepimento era davvero avvenuto, che lei è veramente la benedetta fra le donne e il Signore ha fatto in lei grandi cose, è confermata nella fede, potremmo dire, in qualche modo. E Dio fa tanto spesso così con noi e con tutte noi sue creature, no? Anche quando la vocazione arriva così diretta da Dio, come con Maria, l'angelo, oppure pensate, vi ricordate la vocazione di Saulo, no? È Gesù stesso che lo chiama, però poi lo manda da Anania, e così Maria la manda da Elisabetta, e anche noi tutti, anche quando riceviamo una grazia grande alla nostra vocazione, poi ci manda nella Chiesa a chiedere aiuto a persone, amici, genitori, catechisti, sacerdoti che ci confermano nella fede e nella vocazione, perché vuole che ci aiutiamo tra di noi tutti, non vuole che nessuno sia solo o faccia da solo, che siamo autosufficienti nella vita spirituale. E neanche per Maria ha voluto questo, che pure è la piena di grazia, viene aiutata da Giuseppe, dall'angelo prima, da Giuseppe, da Elisabetta e poi da Gesù, quando nasce e cresce. Maria ci aiuta a non aver paura di farci aiutare, di farci consigliare, di avere amici che ci portano a Cristo, di avere una direzione spirituale, di sapere aprire il cuore con il nostro confessore. Il sesto quadro lo chiamerei la misericordia di Dio. E continua il Magnificat: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. E la Madonna cita la misericordia anche più avanti nel Magnificat, quando dice: ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria si sente portata sul palmo della mano da Dio, sollevata da terra, abbracciata per sempre. Lo Spirito Santo è sceso su di lei, la sua ombra l'ha avvolta. Sente la misericordia di Dio, la bontà che perdona e dimentica i peccati, estendersi, coprire e ammantare tutti coloro che lo conoscono, che lo amano, che lo credono e che crederanno in Lui di generazione in generazione, portati per mano da Lui. Dio onnipotente e misericordioso, ti hai manifestato a Maria nell'incarnazione del tuo figlio, il tuo immenso amore per l'uomo che hai creato, concedici di credere e che hai redento, concedici di credere e di sperare nella tua infinita bontà. Io penso che la Madonna fa riferimento alla misericordia e dice che è per chi teme Dio. Rileggendo queste parole che del Magnificat e il mio commento, mi è tornato in mente che proprio sabato mattina scorso il Papa, i ragazzi che erano riuniti nello stadio di San Siro, nel Meazza, i cresimandi e i cresimati, spiegava i 7 doni dello Spirito Santo, e fra questi il 7° è proprio il dono del timore di Dio, ma gli diceva: guardate che non è paura, è profondo rispetto per la sua volontà, per il vero disegno della mia vita e per la strada attraverso la quale la vita può essere buona. La volontà di Dio è impressa nei cuori, e così il timore di Dio è desiderio di fare il bene e di fare la verità, di fare la volontà di Dio. Ecco, questo è chi ha il dono del timore di Dio, e per queste persone è pronta, si stende la misericordia di Dio, sia nel passato, Abramo, sia nel futuro, tutta la sua discendenza, e poi penso che la Madonna abbia uno sguardo molto più in là di Abramo, per sempre, dice, sa che suo figlio viene a portare l'amore di Dio a tutte le generazioni e quindi per questo noi la chiamiamo beata. Dobbiamo, quando recitiamo il rosario in questo mistero della visitazione della Beata Vergine Maria, possiamo chiedere la sua intercessione perché ci porti alla fonte della misericordia e perché frequentiamo il sacramento della misericordia, no? Anche a quei ragazzi giovani che hanno ricevuto la cresima o la riceveranno, diceva il Papa, della confessione, è un incontro con Gesù che perdona i nostri peccati e ci aiuta a compiere il bene. Ricevere il dono, ricominciare di nuovo, è un grande dono nella vita, sapere che sono libero, che posso ricominciare, che tutto è perdonato. Ecco, la Madonna ci può aiutare, avendoci promesso la misericordia di Gesù. E il 7° e ultimo quadro di questo mistero bellissimo del rosario che ci porta tanta gioia, lo chiamerei la vita normale ordinaria con Elisabetta e Zaccaria, Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua, dice il Vangelo di Luca. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Alla gioia soprannaturale del primo incontro seguono 3 mesi di ordinaria e normale allegria. Con Zaccaria che va capito perché si spiega a gesti o scrive su tavolette. Elisabetta è un'amica con una gravidanza fuori tempo. Maria ha un servizio e una mano per tutti. Non dà peso ai suoi disagi, né li fa notare. Se ne va poco prima della festa perché il Signore le chiede di passare inosservata. Il Signor Gesù ha 3 mesi ed è nascosto nel suo seno. O Dio del cielo, che per farti uomo non hai disegnato il grembo della Vergine Maria come prima tenda del tuo abitare in mezzo a noi, concedi anche a noi di comprendere che i nostri giorni normali possono essere pieni di te. E io penso che appunto la Madonna se ne va un poco prima di questa festa perché non voleva essere al centro dell'attenzione, ha svolto il suo compito, ha aiutato. Fa come poi dirà Gesù ai suoi discepoli, non sono venuto per servire, ma non per essere servito, ma per servire. E quindi anche lei, anche in questo, imita già il suo figlio Gesù che porta dentro di sé. A me colpisce sempre questa grande normalità della vita di Maria e anche dei primi giorni di Gesù fatto uomo, come sarà anche poi ancora per 30 anni. E mi immagino la Madonna che aiuta le persone che sono più anziane di lei, è paziente, quando forse, non so se a me viene in mente quella volta che Zaccaria può o non si fa capire o pensa di non essere capito e perché non riesce a parlare, sono però scene normali comunque di una vita familiare allietate dal servizio di Maria. Mi è tornato in mente, con questo concludo, che il Papa, quando parlava alle famiglie nella omelia della messa di domenica, e io ero lì a concedere, e diceva: la vostra vocazione, quella del matrimonio, delle famiglie cristiane, non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella dell'amore è una realtà meravigliosa, è l'unica forza che può veramente trasformare il cosmo, il mondo. E davanti a voi avete la testimonianza di tante famiglie che indicano le vie per crescere nell'amore. Ecco, a me viene in mente che possiamo leggere queste parole immaginandoci la Madonna che le vive tutte nella casa di Zaccaria e Elisabetta. Mantenere un rapporto costante con Dio, partecipare alla vita ecclesiale, la Chiesa allora era proprio nascente, era in lei tutta la Chiesa. Coltivare il dialogo, quanto è brava Maria in questo. Rispettare il punto di vista dell'altro, bravissima, essere pronti al servizio e nessuno la può superare, essere pazienti con i difetti altrui, saper perdonare, chiedere perdono, di questo forse la Madonna non aveva proprio bisogno, anche se sicuramente l'ha fatto alcune volte, e pur non avendo nessun peccato, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti, concordare gli orientamenti educativi, essere aperti ad altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società civile. Sono tutti elementi che costituiscono, diceva il Papa, la famiglia. Viveteli con coraggio, certi che nella misura in cui, con il sostegno della grazia di Dio, vivrete l'amore reciproco e verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica. Ecco, io penso che abbiamo, tutte le persone che mi raccontano come sono state contente di questa giornata, di questo incontro mondiale delle famiglie, hanno percepito questo, hanno visto tante famiglie che cercano di vivere così, che vivono così, con l'aiuto della Madonna, con la grazia di Dio, con il sostegno della Chiesa, e questo è un motivo di grandissima speranza, di grandissima consolazione. Lo è stato per il Papa, che continua a ringraziarci e a ringraziare Dio, lo è stato per tutti noi e deve esserlo per tutta la Chiesa, anche per quelli che erano lontani, non hanno avuto questa gioia immediata di questo incontro. Noi in qualche modo la percepiamo tutte le volte che recitiamo questa decina del rosario. La Madonna viene a trovarci. Benissimo, stato molto bello, Don Andrea, ci hai molto consolato. Adesso ci dai una bella benedizione per poter attuare questo bellissimo programma. Molto volentieri. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente per mediazione della Vergine Maria, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi tutti e con voi, con le vostre famiglie, e rimanga sempre. E poi operi il bene che desiderate. Grazie infinite. Allora ci sentiamo poi dopo il mese di luglio. Sì, Grazie Don grazie Tino, Filippo, prega per noi, grazie, grazie. Volentieri. Grazie, ciao, ciao, ciao, grazie, grazie. Ancora la Madonna dei Miracoli.